Ti amo, un soldo ti amo, in aria ti amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci. Ti amo, io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io, ma tremo davanti al tuo seno. Ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali. L'amore che a letto si fa, ti amo, rendimi l'altra metà. Oggi ritorno da lei, ti amo, tu. Primo maggio, questo coraggio io ti amo e chiedo perdono. Ricordi chi sono? Apri la porta, guerriero di carta igienica, e dammi il tuo vino leggero che hai fatto quando c'ero, e le lenzuola di lino, dammi il sonno di un bambino che ta sogna, cavalli e si gira, è un po' di lavoro, fammi abbracciare una donna che stira cantando. Di fare l'amore, vesti la rabbia di pace e saltare sulla luce. Io ti amo e chiedo perdono. Ricordi chi sono? Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Dammi il tuo vino leggero, lenzuola di lino, dammi il sonno di un bambino che ta sogna, cavalli e si gira, gira. Di lavoro fammi abbracciare una donna che stira cantando, e poi fatti un po' prendere in giro. Ti amo prima di fare la e saltare sulla luce.